La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al rapporto tra Italia e Libia, colonia del Regno d'Italia nell'Africa settentrionale ufficialmente dal 1912 al 1947. Ripercorriamo le tappe della relazione tra questi due paesi nel corso di tutto il Novecento fino ai giorni nostri, insieme allo storico Angelo Del Boca. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. L'Italia, stando a quel che ha stabilito il Parlamento, partecipa alle azioni militari contro la Libia mettendo a disposizione 7 delle proprie basi militari. In esecuzione della risoluzione numero 1973 dell'ONU che ha istituito la no-fly zone sui cieli del paese nordafricano. È una svolta nelle relazioni tra il nostro paese e la Libia, relazioni contrassegnate nel corso degli ultimi decenni da diversi e contrastati passaggi, dal passato coloniale al trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato tra i due paesi nel 2008. Di fatto la Libia è stata una colonia del Regno d'Italia nell'Africa settentrionale ufficialmente dal 1912 al 1947. L'anno chiave è il 1911, quando la Libia, allora si chiamava Cirenaica, venne occupata dall'Italia di Giolitti. Poi cominciò l'avventura coloniale fascista. Nel 1934, dall'unione di Cirenaica e Tripolitania, nacque la colonia fascista della Libia. Avventura che visse uno dei suoi momenti più tragici nella morte di Italo Balbo, uno dei quadrumviri della marcia su Roma, ultimo governatore italiano in Libia, il cui aereo venne abbattuto per errore dal fuoco amico della contraerea italiana nel cielo di Tobruk il 28 giugno del 1940. Nel dopoguerra poi prese avvio il lungo contenzioso tra i due paesi sui risarcimenti. In seguito alla risoluzione dell'ONU numero 388 del 15 dicembre 1950, l'Italia e il Regno Unito di Libia conclusero nel 1956 un trattato che autorizzava il passaggio di proprietà di tutte le infrastrutture costruite dagli italiani in Libia e inoltre provvedeva a ripianare alla Libia i danni dell'occupazione con un indennizzo in sterline. Il colpo di Stato del 1969, che portò al governo il colonnello Gheddafi, riaprì il lungo contenzioso con l'Italia sul passato coloniale, in particolare attraverso la richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni causati nel corso della colonizzazione e delle guerre combattute sul suolo libico. Gli oltre 20.000 italiani residenti in Libia vennero espulsi dal paese e subirono la confisca dei loro beni. Ne è nato un lungo contenzioso. Di fatto mai risolto interamente, nemmeno dal comunicato congiunto Dini-Muntassé, firmato a Roma il 4 luglio 1988. Un momento di forte tensione si era raggiunto nel 1986, a seguito dell'attacco americano a Tripoli e Bengasi e all'attacco missilistico libico di Lampedusa. Si arriva al 30 agosto del 2008, quando Gheddafi e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi firmano il trattato di amicizia e cooperazione a Bengasi, ratificato dall'Italia il 6 febbraio del 2009 e ora sospeso in seguito all'incalzare degli eventi bellici nel vicino paese nordafricano. In base al trattato, l'Italia si è impegnata a versare 5 miliardi di dollari alla Libia come compensazione per l'occupazione militare. In cambio, la Libia ha assicurato misure per contrastare l'immigrazione clandestina dalle sue coste e favorire gli investimenti nelle aziende italiane. Nel mezzo si registra, come sappiamo, il rapporto privilegiato che il presidente del Consiglio Berlusconi ha intessuto personalmente con Gheddafi, che gli ha causato dure polemiche interne e diverse reazioni anche sul piano internazionale. Rapporto culminato con la visita dell'agosto 2010 a Roma del leader libico. Abbiamo in linea il professor Angelo Del Boca, che è autore di numerosi libri, tra cui cito L'Africa nella coscienza degli italiani, Gheddafi, gli italiani in Libia, è uno dei maggiori esperti in Italia appunto delle questioni che riguardano questo travagliato paese nordafricano. Professore, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi a tutti. Ci aiuti a orientarci nei dedali complessi dei rapporti che sono intercorsi tra i nostri due paesi, che noi abbiamo sinteticamente ricordato ai nostri ascoltatori poc'anzi. In realtà, da quello che si capisce, anche dalla nostra ricostruzione, c'è stato un periodo in cui ovviamente i rapporti tra due paesi sono stati fondamentalmente basati su una relazione che vedeva l'Italia paese occupante. Poi da allora è partita tutta una lunga serie di contenziosi ancora non risolti. È corretto questa impostazione, professore? Sì, è corretta. Ecco, vorrei invece precisare che il trattato di amicizia e cooperazione non è stato sospeso, perché non si può sospendere un trattato se non dalle due parti. Certo. Quindi se non c'è anche la volontà libica, il trattato continua a vivere. È una cosa che hanno dimenticato anche i nostri governanti, che continuano a dire delle cose inesatte, perché lo dice anche lo stesso trattato, soltanto quando le due parti decidono di sospenderlo. No, questo per dire, sono cose molto importanti e che originano degli errori che poi vengono su tutti i giornali, insomma, questo certo. Era una precisazione che andava fatta, ecco. Sì, oddio, sì, sì. Di errori di valutazione ne sentiamo ogni giorno. Sì, certo. Ma diciamo che la vostra introduzione è corretta, perché in realtà le cose sono andate così. Noi siamo partiti nell'11 con una guerra che non era affatto necessaria, ma in fondo il Partito Nazionalista ha spinto Giolitti, che era contrario a questa guerra, così a invadere questo vilayet della Tripolitania e della Cirenaica, e così abbiamo fatto questa guerra, che tra l'altro l'abbiamo vinta soltanto perché siamo poi sbarcati nel Dodecaneso e quindi proprio in faccia alla Turchia. E a quella minaccia, vera minaccia, non tanto quella degli assalti nei deserti libici, insomma, la Turchia poi ha ceduto e si è arrivato alla pace. E così, e poi, professore, abbiamo... si apre la fase del periodo coloniale fascista. Sì, intendiamoci, noi abbiamo, come possiamo dire, abbiamo con la pace, abbiamo sulla carta, abbiamo occupato la Libia. In realtà occupavamo solo il bordo del territorio, perché per esempio per andare nel Fezzan, che è la terza regione libica, abbiamo atteso poi il 1913 e poi nel 15, quando credevamo di aver occupato tutta la Libia, c'è stata la famosa rivolta araba, che è stata una rivolta in coincidenza con l'avvio della prima guerra mondiale, e quindi i turchi sono tornati all'assalto aiutando gli arabi a cacciare gli italiani, e così ci hanno cacciato un'altra volta sulle sponde del Mediterraneo. No, questo per dire che non è stato facile la nostra penetrazione. Certo. Quindi per arrivare poi alla vera penetrazione, alla vera occupazione, arriviamo al 1922, dopo che abbiamo cercato di regalare uno statuto ai libici, che poi ci siamo rimangiati, e poi invece abbiamo rioccupato il territorio con una guerra che è durata 10 anni. Una guerra che abbiamo fatto fare praticamente dagli eritrei, dai nostri ascari, al comando di Graziani. Una guerra terribile, perché insomma dal 22 al 31, quando si conclude in Cirenaica la guerra e viene catturato e poi impiccato a Soluk il capo della resistenza, Omar El Mukhtar, ebbene abbiamo fatto veramente una guerra durissima, costruendo proprio nei giorni, proprio nella zona dove si sta combattendo in queste ore, nella Sirtica, cioè fra Sirte e Ras Lanuf, lì c'erano 15 campi di concentramento. Ecco, questo è un altro diciamo fatto che purtroppo gli italiani hanno completamente dimenticato, ma in tutte quelle località che oggi vediamo contese fra i rivoltosi e Gheddafi, ebbene lì c'erano 100.000 libici chiusi in questi campi di concentramento. Perché? perché Badoglio e Graziani erano convinti che sul terreno non sarebbero mai riusciti a vincere la guerra con Omar il Mukhtar. Allora bisognava svuotare completamente la Cirenaica, riempire questi campi di concentramento, e infatti andò così. Quindi altro però, che occupazione, come dire, tarallucce e vino, come in qualche modo poi si è voluto tramandare, questa fu un'occupazione durissima. Fu un'occupazione durissima perché 100.000 furono, diciamo, messi in questi campi di concentramento, e quando nel 1934 i campi di concentramento ormai inutili furono chiusi, ebbene mancavano all'appello 40.000 persone. Quindi queste 40.000 vanno ad aggiungersi agli altri 60.000 che è il bilancio della guerra di quei 10 anni. Quindi quando noi parliamo del periodo coloniale, sì, non dovremo mai dimenticare che abbiamo causato alla Libia 100.000 morti. E bisogna considerare un fatto importante: all'epoca le tre regioni libiche facevano in tutto 800.000 persone, il che vuol dire che un libico su 8 è morto per difendere il proprio paese. Ecco il motivo per cui Gheddafi ha sempre alzato il vessillo di questa rivolta e ha sempre detto: voi ci dovete moltissimo. In realtà lui poi fa dei calcoli anche sbagliati, perché addirittura lui parla di 1 milione di morti, che non è vero perché non c'erano neanche 1 milione di libici. Grazie professore. Di nulla.